Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi vi propongo un grandissimo poeta della letteratura italiana, uno dei padri della nostra letteratura e della nostra lingua, cioè Francesco Petrarca, vissuto tra il 1304 e il 1374. Ce ne parla e ce lo ripropone Marco Sant'Agata nel libro L'amoroso pensiero, Petrarca, il romanzo di Laura, è pubblicato da Mondadori, 230 pagine, 18 euro. L'autore mette subito in luce un aspetto molto particolare di Petrarca, del Petrarca poeta, non solo, del Petrarca poeta d'amore, anzi, dice l'autore, del Petrarca fondatore della moderna poesia dell'amore in Occidente. Tout court, con Petrarca nasce la poesia moderna, ci spiega Sant'Agata. L'amore del Petrarca è un sentimento molto moderno, visto come perdita e mancanza, come scacco e frustrazione, scrive Sant'Agata, e in questo senso Petrarca ci può essere molto vicino. E la sua lettura ci può riservare molte sorprese. Nel libro Sant'Agata ripercorre dunque il canzoniere petrarchesco, mettendo in luce i vari filoni e le varie stesure che in qualche misura corrispondono ai cambiamenti di sensibilità del poeta. E di questo parliamo adesso con l'autore. Buonasera Marco Sant'Agata. Buonasera. Marco Sant'Agata, nel suo libro lei insiste su un aspetto, sulla modernità di Petrarca e in particolare su questo tema dell'amore che egli ci pone in termini molto moderni, l'amore vista come desiderio, l'amore come desiderio e come contraddizione. Ecco, che cosa può dire Petrarca ai lettori di oggi? Sì, io insisto sull'amore come desiderio, nel senso che non è che Petrarca parli dell'amore come desiderio, così come lo intendiamo noi. Petrarca parla dell'amore con le categorie che aveva a sua disposizione, che erano categorie di tipo etico essenzialmente, però noi possiamo tradurre il suo discorso usando le nostre categorie, e se lo trattacciamo vediamo che un discorso sul desiderio si attaglia perfettamente a quello che Petrarca dice, cioè l'amore come desiderio incoercibile, inappagabile, come ricerca di assoluto e impossibilità di raggiungere l'assoluto. Direi che questo è il nucleo che ancora fa moderna la sua poesia. E allora sentiamo tre testimonianze di questa modernità. Le faccio ascoltare alcuni versi di Petrarca. Cominciamo con questi. Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri onde io nudriva il core in sul mio primo giovenile errore, quando ero in parte altron da quel chi sono, del vario stile in ch'io piango e ragiono, fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono. Ma ben veggio, or siccome al popol tutto, favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna è il frutto, e il pentersi e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. Beh, questo è un testo programmatico, cioè all'inizio del libro Petrarca dice ai lettori che cosa si aspetteranno nel libro che viene. Si aspetteranno un discorso sull'amore, un discorso che condanna l'amore in quanto errore, in quanto sviamento, in quanto fenomeno irrazionale. Sembra tutto chiaro, no? Leggerete questo e capirete che se siete innamorati sbagliate, dovete pentirvi come mi sono pentito io. Il fatto è che poi invece per arrivare a questa conclusione che quel sonetto richiede, Petrarca ci impiega una vita, cioè lui ci prova a dimostrare questa tesi, ma questa tesi non riesce a dimostrarla, c'è qualcosa che gli impedisce di portare fino in fondo questo discorso, e questa cosa è il fatto che in realtà è complicato condannare l'amore come intende fare, è complicato perché significa esprimere un giudizio negativo sulla protagonista, su Laura, su un'intera tradizione poetica. Alla fine c'è la fama, ci mette 25 anni. E confessa che alla fine si sente diverso da come era all'inizio di questo percorso. Esattamente, solo che quel sonetto che abbiamo sentito lui lo scrive proprio all'inizio, non alla fine. Cioè, in genere, quella è una prefazione, se vuole, no? E in genere le prefazioni si scrivono al libro ultimato. Lui invece la scrive prima di avere composto il libro, e quindi deve essere il libro ad adeguarsi alla prefazione, e da qui una difficoltà non piccola. Poi c'è uno dei temi che ricorre, quello della malinconia, che per esempio emerge in questo sonetto, Solo e pensoso. Solo e pensoso i più deserti campi, vo misurando a passi tardi e lenti, e gli occhi porto per fuggire intenti, ove vestì giù man l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger delle genti, perché negli atti d'allegrezza spenti di fuor si legge com'io dentro avampi. Sì ch'io mi credo ormai che monti e piagge e fiumi e selve sappian di che tempre sia la mia vita che celata altrui. Ma pur si aspre vie ne si selvagge, cercar non so ch'amor non venga sempre ragionando con meco ed io con lui. Solo e pensoso è tipico sonetto della melanconia, da intendere in senso forte però. Qui si parla della solitudine, ma noi dopo l'esperienza romantica siamo abituati a dare un valore positivo alla solitudine, all'uomo che in solitudine ricerca dentro di sé, si ritrova in solitudine. Ma per Petrarca, erede della tradizione classica, la solitudine, cioè l'essere tagliato fuori dal consorzio umano, era una condizione quanto mai negativa, tant'è vero che chi cercava la solitudine? I melanconici. Ma chi erano i melanconici? I melanconici oggi noi li chiameremo i depressi, coloro che erano affetti da una sindrome depressiva. E per Petrarca e per i suoi contemporanei e per la Chiesa stessa la depressione era una colpa, era un peccato. Si chiamava accidia, bisognava guardarsene perché toglieva la possibilità di guardare al futuro, di guardare alla creazione con quell'ottimismo che la rivelazione impone. E quindi questo sonetto che noi oggi tendiamo a leggere come un po' consolatorio, in realtà ha un contenuto molto drammatico. E poi c'è il tema del declino fisico che emerge per esempio nel sonetto «Erano i capelli d'oro a Laura sparsi». Erano i capei d'oro a Laura sparsi, che in mille dolci noti li avvolgea, e il vago lume oltre misura ardea, di quei begli occhi, corne son si scarsi, e il viso di pietosi color farsi, non so se vero o falso mi parea, e che l'esca amorosa al petto avea, qual meraviglia se di subito arsi. Non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma e le parole sonavan altro che pur voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel che vidi, e se non fosse tale, piaga per allentar d'arco non sana. Sì, perché Petrarca sul trascorrere il tempo ha costruito praticamente quasi per intero questo libro. Il passare del tempo, l'incombere della vecchiaia, l'incubo della morte e dell'annullamento sono stati la sua ossessione. Gran parte della sua produzione si spiega proprio scavando intorno a questa ossessione che lo ha invaso e che lo ha posseduto un po' per tutta la vita, e si lega sull'altro discorso, che sul discorso che facevamo prima sulla depressione. Petrarca sembra proprio aver sofferto di crisi depressive e l'idea della morte, ma non tanto della morte, dell'annullamento, della mancanza di sopravvivenza nell'aldilà, un dubbio che lo sfiora molto spesso, ha un ruolo molto molto importante. È anche uno degli elementi che danno vita a una poesia scritta tanti secoli fa e che noi sentiamo ancora attuale, io credo, perché c'è dentro questo tormento, c'è dentro questo tarlo, c'è dentro una sensazione di fragilità che noi, con la quale noi ci identifichiamo molto. Grazie a Marco Sant'Agata, autore dell'Amoroso Pensiero. Buona serata. Grazie a voi. I sonetti che avete ascoltato erano recitati da Roberto Mussapi, che ha curato e appunto legge alcune grandi poesie nell'audiolibro La grande poesia del mondo. Sono due CD pubblicati da Salani, 15,80 euro, nei quali trovate una bella antologia che parte da Omero, dall'Odissea e arriva fino a Rainer Maria Rilke. Se siete appassionati o se vi siete appassionati a Petrarca con questo libro, vi segnalo il libro di uno dei maggiori studiosi del grande poeta, cioè Ugo Dotti, si intitola Vita di Petrarca, pubblicato da Aragno, 724 pagine, 40 euro. Questa è un'opera certamente monumentale che riprende un testo uscito per la prima volta 30 anni fa e poi rielaborato e ampliato, e troviamo qui un affresco completo del Petrarca e dei suoi tempi, dell'Italia non soltanto, visti anche i lunghi soggiorni di Petrarca in Provenza e poi in tante città d'Italia, da Milano a Pavia, Venezia, Padova e fino ad Arqua, dove poi morì. Conclude il libro di Dotti un epilogo, quasi un breve saggio, sul ruolo del Petrarca come fondatore dell'umanesimo, la cui nascita fu tanto più sorprendente per il suo richiamo alle virtù classiche. Quanto più spregiudicata si faceva, insomma, la società del tempo, nota l'autore, tanto più Petrarca cerca di tornare alle antiche virtù. E infatti Petrarca denunciò questa deriva, denunciò l'ascesa di una borghesia ambiziosa e danarosa che cambiava completamente tutti i parametri, anche di carattere etico. Per esempio Firenze da Petrarca viene descritta come simbolo, scrive Dotti, di una società nella quale non faceva che agitarsi una turba al vil guadagno intesa. Firenze diventa una città lucro dedita, mercatrix et lanifica, e non credo che serva tradurre, gremita da fullones textoresque, cioè lavatori e tessitori di panni che, esclusivamente miranti al brutale interesse materiale, scrive Dotti, deturpano e sviliscono con la loro presenza egemonica il volto di un consorzio civile volto alla realizzazione di più nobili mete spirituali. E quindi Petrarca sente l'obbligo, ci spiega l'autore, di scendere in campo per avvertire almeno i suoi simili dei gravi rischi di disumanizzazione, altri dirà di alienazione, insiti in una società esclusivamente dedita al denaro e al basso piacere. Come sentite, una conferma della grande attualità di Francesco Petrarca. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi segnalo adesso una serie di libri a sfondo biografico e comincio con quello di uno tra i più noti e importanti critici musicali italiani, cioè Paolo Isotta, noto anche per molte sue prese di posizione coraggiose e anticonformiste. Il libro che ha scritto si intitola La virtù dell'elefante, la musica, i libri, gli amici e San Gennaro, è pubblicato da Marsilio, 590 pagine, 21,50 euro. Questo è un libro particolare, come spiega lo stesso autore, nato come libro di memorie, è diventato poi, ci spiega, la summa di un'esperienza che forse è più vasta di me stesso. E il titolo del libro si riferisce all'iscrizione del monumento dell'elefante del Bernini, l'elefante che regge l'obelisco in piazza Santa Maria Minerva a Roma, che ha un'iscrizione che possiamo così tradurre: impara che occorre una virtù robusta per reggere una mole di sapere. E si comincia in questo libro dall'infanzia, inframmezzando il racconto con aneddoti, episodi, ritratti di personaggi, giudizi spesso impietosi. Per esempio, all'inizio del libro Isotta non ci nasconde la sua scarsa simpatia per la Calabria. Non amo i calabresi, scrive, di solito sono antipatici e hanno un fondo di rancore, odium humani generis e fastidio all'idea che altrui faccia, onde nulla facendo dedicano le loro energie a impedirlo. Ma quando il calabrese signore, riconosce però Isotta, lo è in modo straordinario. Ci sono altri giudizi non meno significativi, ne voglio ricordare due che invece ho trovato alla fine. Per esempio un giudizio sulla qualità della critica musicale nei quotidiani attuali e soprattutto sulla qualità del pubblico musicale, due universi, quello dei critici musicali e quello dei pubblici, la cui scarsa qualità probabilmente va assieme e si spiega reciprocamente. Scrive infatti Isotta che, a proposito dei caporedattori spettacoli dei quotidiani, che la gran parte sia corrotta dai principali fenomeni mass mediali. Non si spiegherebbe altrimenti la massiccia presenza di fenomeni affatto inconcludenti sulle loro pagine, con interviste, articoli, biografie e anticipazioni, questo in corsivo. E per quanto concerne la musica classica, li compri con una cena. E ciò avviene, aggiunge, con la connivenza dei direttori dei giornali, i quali lasciano fare per ragioni che vanno dal bovarismo sottoproletario, pur da loro vissuto ancorché lucupletatissimi sotto il profilo economico siano, al desiderio nascente da viltà di non avere oppositori interni. Insomma, troviamo qui un'autentica miniera che fa rifulgere l'intelligenza e la cultura del grande critico musicale che ha potuto conoscere alcuni dei più grandi musicisti del nostro tempo, a partire naturalmente da Muti, che viene definito il più grande direttore d'orchestra vivente insieme con Bernard Haitink. Ma non si parla nel libro solo di musica, per esempio c'è una lunga digressione su Céline, considerato il più grande romanziere del Novecento, su Gadda, nel pasticciaccio brutto di via Merulana l'autore trova il mondo intero, ci sono considerazioni su grandi pittori, insomma emerge una vita che viene definita da Isotta straordinariamente felice e fortunata, grazie naturalmente alla protezione di San Gennaro, al quale viene dedicato un apposito capitolo per sottolineare il ruolo insostituibile che il patrono di Napoli ha giocato sulla vita dell'autore. Racconta, anzi continua a raccontare la propria esperienza, Gianluca Nicoletti, voce cara a molti ascoltatori di questa radio, che ha scritto "Alla fine qualcosa ci inventeremo, che ne sarà di mio figlio autistico quando non sarò più al suo fianco". È pubblicato da Mondadori, 194 pagine, 16,50 euro. Già avevamo parlato con Nicoletti del suo primo libro, Una notte ho sognato che parlavi, nella quale Nicoletti presentava la condizione difficile di una famiglia con un figlio autistico, e qua prosegue questo racconto. Il figlio Tommy, come dimostra l'episodio iniziale del libro, straordinario esempio di ottusità burocratica, può contare per adesso sul padre, sulla famiglia, sulla madre, sulla capacità di comunicazione e di mobilitazione che ben conosciamo in Nicoletti. Ma dopo che cosa succederà? E allora, dice Nicoletti, è importante continuare a scrivere e a raccontare, a coinvolgere e a spiegare, proprio per motivare l'opinione pubblica intorno alle condizioni di chi appunto è un autistico. Sentite come per esempio Nicoletti affronta il tema parlando di un episodio reale, quello di un giornalista importante diventato addirittura senatore, che in un ricevimento in una sontuosa terrazza romana dà dell'autistico a un avversario politico, suscitando la partecipata ilarità degli astanti. E sentiamo che cosa dice a proposito Nicoletti. Per affrontare in modo razionale il problema dell'autismo in Italia occorre una battaglia culturale. L'autismo è sconosciuto nel nostro paese. O meglio, più che a ogni altra latitudine, noi italiani rappresentiamo la polverizzazione in un numero indefinibile di interpretazioni d'un malessere già di per sé molto poco definibile. Ho in pochi giorni radicalizzato questa mia convinzione, che mi pare di avere già espresso in maniera quasi maniacale in quanto finora ho scritto sulla mia esperienza personale, in occasione di una vicenda specifica. Capii allora l'aspetto più drammatico di tutta la vicenda. Quel cosmopolita intellettuale, in realtà, sugli autistici aveva una lacuna abissale, appena arginata da quanto ricordava d'aver visto al cinema o in TV, sui soliti geni matematici autistici. Una conferma che la visione fantasiosa e romanzesca dell'autismo arriva fino ai piani alti delle nostre istituzioni, ancora più beffarda se si pensa che al Senato si tergiversava da tempo su una legge sull'autismo che noi familiari aspettavamo da anni. Ho continuato ad avere l'impressione sempre più radicata che il problema dell'autismo sia ignorato in ogni circolo di pensiero, oltre ogni matrice ideologica, quando qualche giorno dopo la polemica ho letto l'editoriale di un direttore di giornale di tutt'altro segno politico e con visioni della vita totalmente antitetiche al suddetto senatore. Era un pezzo in sua difesa, che invocava il diritto all'invettiva mediante l'uso del termine autistico e citava a supporto della tesi la voce autismo tratta da Wikipedia, dove se ne descrivono i sintomi. E quindi trovo particolarmente coraggiosa la conclusione del libro di Nicoletti: sarà necessario per noi restare il più vivi possibile. Ce lo impone l'unico compagno con cui divideremo fino in fondo il nostro viaggio, che di sicuro non ci lascerà mai soli. sa bene che se smarrisse noi sull'universo intero per lui calerebbe la tela. E conclude Nicoletti: alla fine, nonostante tutto, resto convinto che avere un figlio autistico che ti cresce accanto è una delle migliori opportunità che ci possano capitare per non annoiarsi mai. Un racconto familiare è quello di Pierfranco Pellizzetti, che è un imprenditore, docente universitario, saggista, che ha scritto Una breve primavera. I ragazzi sperduti della resistenza tradita è pubblicato da Sedizioni, 162 pagine, 18 euro. Qui si parla di uno zio giovanissimo partigiano nell'entroterra ligure, autore di imprese coraggiose, quasi al punto da farne una sorta di Primula Rossa della resistenza ligure. È interessante nel libro la ricostruzione di quei mesi, ma soprattutto delle motivazioni che spinsero ragazzi magari senza particolari appartenenze ideologiche o provenienti da famiglie borghesi o altoborghesi ad aderire alla resistenza ai movimenti comunisti. Le loro speranze dopo la resistenza furono tradite, questo è il succo del libro. Fu particolarmente malinconico la loro esperienza successiva alla resistenza, vennero rapidamente messi ai margini, dimenticati, e così descrive l'autore questo crescente senso di frustrazione che si diffuse per una larga parte di una generazione di italiani. In tutte queste vicende umane si scorgeva il livido bluastro, forse una ferita che non rimargina, di un'estromissione che gradualmente distillava in livore contro il resto del mondo che aveva tradito e poi dimenticato i prodi combattenti. Periodicamente i reduci si davano appuntamento in cene da Come eravamo, nelle quali potevano coltivare liberamente una rabbiosa nostalgia, il rimpianto per quella che a ognuno di loro sembrava l'occasione mancata della vita. Uno stato d'animo di cui serbo ricordo personale. Infatti, poco più che bambino, accompagnavo lo zio Ugo nelle sue scorribande alla ricerca del tempo perduto, tutte le volte che tornava in Italia. La tappa d'obbligo, la sua Madeleine, era a Cavi, nel bar dello stabilimento balneare gestito da un ex partigiano, diventato punto di ritrovo pomeridiano per altri reduci. Mi offrivano un'aranciata e poi stavo ad ascoltare quei discorsi da grandi. C'era una frase che ripetevano sempre e allora non capivo. La volta scorsa ci hanno disarmato, non riusciranno a farlo la prossima. Ci porta a tempi più recenti il libro di una politica attualmente in esercizio, Ilaria Borletti-Buitoni, già presidente del FAI e oggi sottosegretario al Ministero dei Beni, dell'Attività Culturale e del Turismo. Il libro si intitola Cammino Controcorrente, pubblicato da Mondadori, 212 pagine, 16,90 euro. L'autrice appartiene a una famiglia espressione dell'alta borghesia milanese e il suo libro è una testimonianza innanzitutto proprio di quel mondo ormai consegnato alla memoria. Un mondo, scrive l'autrice, non facile, un mondo costituito da poche famiglie, ci spiega, dove si entrava per nascita o per matrimonio, ma solo dopo aver superato una non scritta ma ferrea selezione all'ingresso. Tutte unite da una consuetudine di reciproca conoscenza e amicizia e con dei codici di accesso precisi e non sempre evidenti o facilmente comprensibili dall'esterno. E poi naturalmente nel libro si parla di cultura e politiche culturali, interessante anche le amare considerazioni sull'effimero fenomeno politico del movimento Scelta Civica, per il quale la Borletti-Buitoni fu eletta in Senato. Una scelta che ben presto viene giudicata un errore, scrive infatti la Borletti, che è la più diretta conseguenza di queste traversie di Scelta Civica fu la percezione netta, ci spiega, di aver sbagliato casa. Non ero entrato in un movimento riformista coraggioso, in un certo senso rivoluzionario, ero entrato in una strana casa abbastanza indefinita e dunque già relativamente fatiscente. Ma il giudizio è pesante un po' su tutta la politica, scrive infatti la Borletti, che la politica abbastanza spesso non risolve, non vuole risolvere. Il politico ascolta e rimanda, agisce solo se intravede un ritorno pubblico per sé. E insomma, la tentazione di scendere dal treno, come scrive lei stessa, è forte. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo un libro pubblicato da Baba Libri con la collaborazione di Amnesty International, cioè Hakim Corre di Claude Dubois, tradotto da Tanguy Bablé, 11,50 euro, è un libro che ha avuto un grande successo all'estero, un libro soprattutto fatto di illustrazioni, di poetiche illustrazioni sul destino di un bambino, di una comunità improvvisamente al centro di uno scontro bellico che costringe Hakim e la famiglia alla fuga, che addirittura separerà il bambino dalla famiglia, lo porterà